ma la porta del tuo giardino è il mare. La batte il sole e tu non apri. Ascolti i sassi rotolare alla risacca, lo stesso moto che non sa scagliarli, non li raccogli in una montagna, e tintinnare tante campanelle dalle barche che tirano gli ormeggi ad afferrare per la coda i venti. Appesa al fiore dell'origano, una farfalla azzurra, assetata, e lampi contro luce di chiarità terrestre, i limoni, e, frammisti ad archi senza peso, altri frutti, acerbi nella calura del cielo. Le nuvole asciugano l'odore del silenzio all'uscio delle case.